E chi sta Guffetta? Guffetta. Ehi, you! Ehi, you! Guffetta! Marmito, sì! Ehi, you! Cosa triste? Cubicando! Ebbene! Cubicato, aiuto! Che ti chiedi ogni difesa? Oggi è sabato. Oggi è sabato e non si lavora, come fa quella canzone? Ah, già è vero, sabato non lavori. So che abbai denni alba, vedi il ciumacu vicino al cratere che sta erustando. E gli è andata apposta a baccuglini una pietra incandescente di quelle che escono dal vulcano. Cazzo si è cingiata la ruta. Un fuoco, fa triste. E aspetta, sto cambiando la candela all'acqua scooter che domani lo devo affogare. Ehi, you! Attenta, Guffetta! Mimmi! La galiccia che devi andare alla Sinara con l'acqua scooter, la galiccia. Oh, Luca! Lo sai quei pannellini solari? Uno non funzionava, ho provato a collegarli, l'altra batteria, come mi ha detto tu, che puoi mettere due batterie, me la progenne la mano. Adesso non lo so se funziona, perché non accendeva, adesso l'ho messo al sole da mezz'ora. Chissà se funziona. E certo che funziona, dopo che mettere due batterie, più, però non in serino, in parallelo gli devi mettere mille batterie. Capito. E puoi mettere anche tre. A te, Leo. E Leo. Se ne ho messo una, no? Attaccata al rosso con il rosso, dove è attaccato il filo a quella attaccata. Ho messo quella batteria di chi su che mi ne era parato io. Che se l'hai fasciato. E tutta pezzi, però già funziona lo stesso il pannello. Vuole saldato e tutto, già dovrebbe rifunzionare. Perché l'ho provato così e già funzionava. Stava scaldando la batteria. Bisogna essere collegata bene. Se non è saldata bene, scalda la batteria, grazie. I fili devono essere saldati benissimo, le batterie. Capito? Se no scaldano e ti si bruciano. Ah, io l'ho messo in uno di questi, l'ho messo a due batterie e le carica tutte e due. Attento, Maglio! No, l'ho saldato, io stavo facendo la prova e gli ho messo un pezzo di nastro, sia al filo e al meno, e il filo legato, ho attorcigliato il filo e messo un pezzo di nastro, sia a destra che a sinistra. Ho provato e non accendeva, ho toccato la batteria di la progenie, ne ha giunto da subito. E allora l'hai messa in corto con l'altra, per forza, grazie. Suo proprio, rosso con rosso e nero con nero. E poi sopra ci ho messo lo scotch. E l'ho provato, ma un secondo, ho toccato la batteria ed era bruciata. Attento, grazie. È molto strano. Io le puoi collegare due batterie, è importante che le metti in parallelo, capito? Poi già funziona, già le carica due batterie e il pannello. Solo con lo scotch. Gran Maglio. Attento. Oh. Non ti sente, non lui. Non mi sente davvero, boh. Chi è Luca? Mi senti, grazie. Già ti sento. Tu non hai mai problemi, vai. Ma non è che c'è lo scotch troppo alto, no? Ma da quella distanza glielo apri come niente, lui. Ma anche se lo mette a 10. Allora vuol dire che è un problema suo, perché, riceve bene, tu mi hai risposto subito. Perché lui non è un ricchione, è ricchione e basta. Attento, grazie a Maglio. Ehi, you. Che fai che ne sei? Sono con buon stracco, ho finito la sesta di mangiarmi un cornetto con le noccioline. E del stracco di mascigà. Io mi sono mangiato un biscotto. Doppio gusto, quei biscotti buoni, quelli dell'Eurospin, sono molto buoni. Poi vai su chi curta. Io mi ho fatto un caffè bourbon con la macchinetta, bello cremoso, e insieme a quello mi ho mangiato un pezzo di tortina, due fettine, là, diciamo. E poi mi ha detto Paletta, Cici, lo vuoi un gelato? E dammi un gelato. Faccio mangiare un cornetto. Avete fumato pure una sigaretta, no? Ci sta la sigaretta comunque. No, c'ho la pipa, c'ho. Andava bene. Andava bene. Come la iatta con Lugani, messo. Come? Tu vai a collare il ruglio. Io chi sai? Come lo chiama Graziano, è il gattino col collare rosso. La pipa non te l'avevo mandata, non te la ricordi. Vabbè, ma la sigaretta non la stai più fumando allora. Una ne ha tanto. La pipa però sì, c'ho anche l'altra macchinetta. Veramente ne ho una, due, tre macchinette e la pipa. E avevo ordinato le sigarette, quelle usa i getti. E non sono arrivati, avrà arrivati. Adesso te ne mando una io, pipa. Marina ne ha tante, mi. Sono tornata a Marina, un bel. Quella è pipa tabacco, ce l'ho anche io una in salone, bella, tutta intarsiata. Ma ti rimandi un paio di bimbi, asetta. Adesso vado, riprendo la cucina nel cassetto, sono. A me già mi piace la pipa, io la uso spesso, anche prima usavo quell'altra, col tabacco, ogni tanto già la uso anche quella. Quando mi sta lo zirio. Luccato, lo compro un po' in pelle. Pipetta! Guarda, ti ho mandato la foto. Già sono belle. No, io ce l'ho una in salone tutta intarsiata. Adesso la prendo e ti mando la foto. E chi le usava quelle lì? No, la figlia piaceva, non capito. Ma se la bippava? Ma mi sa di no. Qualche volta l'avrò usata. Già sono belle. Aspetti, mando quella che c'ho in salone. Ce la prendo. Attento, Mario! Uffetto! Attento, Mario! Già le ho viste, grazie. Hai visto l'ultima, te ho mandato l'ultima. L'hai vista? Quella è... con il liquido funziona, la vedi? Sì, sì. Ma tu non la sei, ma grazie. Che Luca c'ha due nomi, si chiama Gianluca, vabbè, cognome non lo diciamo, Maglio, c'ha anche un secondo nome, si chiama Maglio. Maglio, già lo so il cognome com'è, Maglio, Gianluca Maglio. No, il cognome già lo sappiamo com'è, no? Lui c'ha due nomi, Gianluca e il secondo nome è Maglio, l'ho letto nei documenti suoi l'altro giorno. Io non lo sapevo, lo conosco già da qualche anno, adesso lo sai, pure tu si chiama Maglio, infatti io lo chiamo Maglio adesso. Allora lo chiamiamo Maglio, attento Maglio. Maglio chi sei? Tu, Luca e chi non te lo dice? Maglio! Maglietto, ci sa bene mi Maglietto. E Cecilia. In famiglia, quello è un nome in famiglia. Due nomi c'ha lui. Gianluca Maglio. Elio. Certo. Ma alla fine ha fatto il suo Elio di Usini. Sarà Pacurelli. Boh. No, giù inteso, c'avevo un amico su Facebook, anche da lì mi ha cancellato. E cosa gli hai fatto? Non l'ho più sentito io quello da Usini. Andava, non è che mi preoccupa la cosa, ma... Beh, se non gli hai fatto niente. No, nulla, non. Ah, l'ho fatto. Allora, mi vado amici, sapevo mi scancella così. Non cancella, no, scancella. Oh, ancora c'è caldo. Io questa pipa, quella col tabacco l'avevo pagata un bel po', è bella, è tutta intarsiata. Un bel po' quanto? Oh, mi sembra sulle 170. Ma legno, eh. E allora, sì, c'hanno di plastica, l'altra quella elettronica e una legna di mammo. Un materiale, non so, non mi ricordo il materiale, però già è bella lo stesso. Però questo è legno, mia, è leggera, leggera, lo sai che è bella? Mi laverà giù più di 20 anni, buoni. E non vanno, ma l'ho usata anche da poco, mi ci avevo messo un po' di tabacco. E già funziona sempre bene. C'è il salone a bella vista così. E l'avevo presa questa in via Cagliari, dove c'è quel tabacchino vicino al portico per andare in Piazza d'Italia. C'è lì un tabacchino che ci sono due gradini rialzato a entrare. Ah, sì, sì. Lì l'avevo presa più di 20 anni fa, già è una di... E prima già me la pipavo più spesso. Legna di mammo. Che mari? Fumavo di meno sigarette e con questa pipa qua. Che mari? E mormito è Gianni Maria. Dormito è ancora? Ho in bicicletta nel cortile lì dietro casa sua. Scatta. E dai chi vino vicino. Attimi. Va, certo che non la toglie neanche dal magazzino perché non ce l'ha fatta. Certo che non usarla e non riuscirla a non poterla utilizzare è un casino, è brutto. Se gliel'ho detto l'altro giorno, a chi non la vuoi che ti va un giretto, scendi sino alle poste, oppure fare i noghi, tutto il circondario, già non ne passano molte macchine neanche. Fa il percorso che fa il tram, assai. Ti fai un giretto, no? E anche se la buona in moto, chi la fa si pedalà, il magazzino non è mai quanto camminare, no? La mia vita io l'ho fatta pure in campagna, era andata pure a farmi la pizza, solo che io non la posso guidare. Però adesso l'altro giorno stavo guardando un programma, ci sono anche a due posti, e col tettuccio. Oh, sono macchinette però, non è moto, c'è anche a moto però ha sempre a due posti e due sedili, bambi. Eia, ma te l'ha spiegato Gio Maria che non la usa perché non riesce a toglierla da magazzino, capito? Perché il magazzino è stretto quanto il manubrio della moto, così che ci vuole una persona davanti e una dietro, hai capito? Chi pone una pedana di legno si posa in alto, arriva alla porta, fa passare leggero leggero il manubrio e poi è dubusato, ma te si scende sulla pedana, no? Assai difficile, boh. Ehi, difficile, grazie. Se abbiamo tolta in due, è larga, è complice, bisogna fare gincane con il manubrio. E siccome pesa anche, no? L'abbiamo tolta in due l'altra volta. Da solo non ce la fai, perché è pesante. Capito, mi hai? Ebbene, si può allargare la porta e metto una porta più larga, assai. Tanto c'è lo spazio. Oh, fai che l'allarga un 10 centimetri, o se no quel portoncino gli aggiunge una battuta e si allarga la porta. Sì, travagliare i due, grazie, che hai pitta. Nuda si dizendi. È un casotto, è pesante, poi c'è, vabbè, il gradino lo risolve con la pedana, con uno scivolo, quello sì. Raga, travaglio, il muro è stato per iniziare te lo segni con la mola, 10 cm. Il portone, lo briscio, lo smonti, aggiungi, gli fai l'anima, ci entri i quattro perni e gli ci entri mi sembra quel portoncino e lo vendono da bricome, i listelli per assemblare i portoncini e lo aggiungi, li incolli, buoni rimorsetti, un paio d'ore è pronto, poi ribucca e ripiazza lo briscio. Cazzo sai il bravo, ma... Cazzo, avevo più tempo a di lui, a fallo, grazie a ogni progetto. Una cazzata, io in campagna... In un paio di ore mi ho fatto il portellone di cucina nuovo mio. Sono andato alla bricco, mi ho preso i lissoni, quelli per assemblaggio, tipo il berlinato, sono già pronti, li ho tagliati a misura lì in campagna, gli ho messo sulla colla, le morsetti, dopo il pagliatore ero già piazzegni, le annuba e lo friscio. E un mazzano me l'ha già fatto, a due berri. Oh, grazie, se no le fa il segno del manubrio. E esci con il manubrio e rimane giù, e invece di le braccia. E lascia come ha detto l'infanzi, pancia compresa. Un attimino. Faccio un po'. 10 minuti. Allora, più a dirlo che a farlo. Lasciato in campagna. In mezz'ora mi ha attaccato. Due lampadari e una plafoniera. E lui, avete parlato insieme con Graziano, comunque ho capito che ti stai allontanando dalla radio per tuo cugino, vabbè, dai, a dopo. Chi è? Graziano, mi senti? Ma non mi intendi tu? Io sì. No, tu non mi intendi, Graziano. Sì che ti sento. Ma là che non rispondi, dice con due mi lamenti, tipo, ma già cazzo vai l'Alzheimer? Adesso ti ho sentito, poco fa non ti ho sentito. Luca, ti ha amato a poco fa, io non l'ho sentito. Perché avete parlato insieme, che stava dicendo che si sta allontanando dalla radio, che deve andare da un suo cugino, non so, che sono arrivati da fuori, buh. Mio cugino nipote da Londra con la moglie, dai, la vuol far conoscere. E ci sentiamo fra un po', dai, arrivo subito. Ehi, va bene, ok, già è acceso qua. E bello. Ehi, aspetta, stavo sistemando la candela nell'acqua scooter. Ehi, chiama quando hai finito, che ci metta a posto questa pippa. Ehi. Chi è? Chi è? Ehi, you. Dormito, boh. Aspetta, buffetta, che ti facendo c'è? Aspetta. Boh. Aspetta. Ciao, Mari. Senti. Cari, mi bogo, forse un guisante la che faccio. Super potenza. Ecco già che stai facendo. Mari, e cosa stai facendo? Ciao Ru, buonasera. Ciao Gio Mari, cosa sei un cambio in occhi? Oh, la so che ti tieni a farmi la doccia prima di uscire lì da. Oh, e se no ti dimmi. Oh, Fumi, lascia questa a me. Hai sentito Ru? Ehi, oh, inaccio una gana, Gio Mari. Mi ha risposto. Ciao Lore! Rosi, non la mangiare tutta la pizza, porta un po' a me. Ehi, oia, nasce una gana e non tappi. Non viene a uscire, dai, non c'è sette. Ehi, dove manda a patà, oia, che caffè mu tutti in crisi oggi. Ciao, ciao. Balla, balla, balla. Ehi, Lore. Mi pare che è pure Patrizia, e fine di genti, oia! Se la dava sempre a tu per la Patrizia, dopo due che non la vedi. Patrizia! Monello! Un paio di che non la vedi, ha detto che... A saluta fila, dice, se la vedi. A chi sa, si fa di vedere la voce del babba. A filo, già vuoi fare. Comunque buonasera, ben sentita. Caldo c'è, caldo, ma io direi che adesso si sa bene, infatti ho sollevato lì la finestra, una parte all'altra, sta entrando l'arietta e si sa bene, vai. No, qui cucina Gio Maria, ad andare in nuovo andarsi in usori. Puro di per attenta, ma beh, vai, ho pure un po' carito di serrandi, che mi ha letto in salone, piano piano. Beh, il salone che vi tocca risolvere, ma E così la vi tocca, come ti tocca ad occhi salone, il salone vi tocca un bene, e tutta la settimana veramente a casa si entra. Poi essendo che c'è la cameretta, noi ci abbatti per più fresco, dai. In sala non si può entrare, oh, per un cambio lì. E siamo sempre noi, in questa cameretta, per fresco si c'è di me, dai. Dina va a pensare noi, Gio Mari. Rilacciamo a Luca, Luca. Luca, ma niente la bassa forre, merendendi. Luca, se vuoi, mi pare che erano freddi. Se va a ma niente. No, io qua sto qui in cucina. Non è ho caldo. Anzi, mi alza un po' la serranda, il salone. E in cameretta si alza ancora più bene. No, è passata l'arietta dalla camera nostra, è passata l'arietta in questa cameretta, poi si sta messo là e si c'ha di me, dai. Così che non si da lamentarsi, là. E cosa vuoi fare? E se mi c'è bisogno, c'è un gatto, così che il gatto mi va. Adesso dove cominciare male a mazzare, no? Oh. No, rimane lì la fea, oggi è bella la giornata. Sì, c'è caldo se ti bona lo sole, ma se stai nell'ombra ci sta bene. Non lo senti tutto questo caldo, Oh, non è caldo oggi, va. Già si può stare bene. Già si può stare bene, là. Infatti, io sto bene perché qua ci passa la rietta e... Ma con ventola già fece lunga, per cui si sta bene. E di Roma abbiamo fiso la ventola. Però si sta di bene senza la ventola, per cui sono tranquillo. Magari è capace, ma è più tardi, fate più casa ancora. Poi da sicuro, Non si sa, vediamo un poco. Ma dalla parte di cameretta, di camera da letto e di un salone, va giù l'ombra io, va. Da metà mattina incomincia l'ombra, dalle 10:30, 10:15 incomincia a abbassare il sole e dunque i muri non sono calci e si sta bene. Io che ho già abbassato la tenda, a di 2:30, a che era già arrivato il sole, proprio a passare in dentro, e so come è tutto a petto, gli zanzalieri di là e si sta bene. Io non lo sento tutto questo caldo. Anche dalla parte nostra, perché è uguale, dalla parte della piazza. Meno male Marina ha messo con la tenda, sennò no che non si può rilassare. Diciamo che un bel po' copre, altrimenti non si porta manco stare con la porta a finestra chiusa e la finestra la voce bella passata, perché entrava il caldo allucinante. Io vi do rubili come te, no, che in cucina. Anzi, tu rubili di più, vi. Da romanzano come te, ci rusori, bili già rusori. A da me no, perché mi fa l'ombra il grattacielo. Poi verso mezzogiorno, l'1:30, così comincia a arrivare il sole qua. Capito? Io quando arrivi è nata la ringhiera, bacio la tenda. E ci sta bene. Sì, ma non male che ha messo la tenda lì, diciamo un po' copre, dai. Un bel po'. Altrimenti, anche se vabbè adesso c'è il sole, se apri entra l'aria calda. Però molto meno. Vabbè, dai, noi ci siamo preparati, stiamo uscendo. Ci sentiamo domani, non credo. Forse domani, dai. Quando rientro al mare, tempo permettendo. E sono lunedì, da. Ciao Graziano, ciao Gio Maria, Paoletta e saluti in casa, ciao a tutti. Eia, ciao buon bagnetto. Dai, quella tenda ce l'ho più di 10 anni, me l'ho piazzata io quando la stavo lavorando, le vendevamo noi. Però questa io me l'ho comprata in BHV e me l'ho piazzata io. E più di 10 anni ce l'ho, e le 99, il tessuto è di quello buono questa, la giubbada un bel, non è che la giubbada 30 euro, l'ho fatta la marca di sud, però il tessuto è il migliore. Lo so, vabbè, dai, ciao, anche la parte di Marina vi saluta, ciao. Eia, ciao, saluta anche da parte mia di Rusi. Buon divertimento e non ti bruciare un sole come ti hai fatto la Fladi. Ciao. Sì, peggio. Ciao. Ciao Giovanni, riprendi, ciao. Ok, ciao. E sentiamo, infatti piglio la piala piala un sole. Chi sono da bui? Sono capo di Giulia. Piano piano. E se è possibile fatti fregare quella attiva abbronzante che è meglio. Ah, che caldo brucia da voi un di mari, Ci va via tutte e due anche, ustionate, non le andate a fate vedere, mi ha mandato la foto. Via via Gotti! Allora brucia, adesso brucia il sole, si chiede di stare attenti. No, no. Io il sole gli ero un biglio. Dove sta? C'è per l'ombra e sono tranquillo. Un tempo, cazzo, quando trovavamo i cantieri, cazzo, cazzo si è pappettuto, mi fate niente come un negro, cazzo. Maria sempre un negro, Maria, cazzo, si può immaginare. Però da un vent'anni non è più di sole. Io, assolutamente, ma quando avevi la cabina no, ti credi, non li pigliamo i soli, li pigliamo poco e niente, non mi piazzia, ecco, e no, ma tranquillo, non c'è di avere. A te un minutino, ti dà per ti mando un avvolto. Ti si è addappata un poco, Ciao Mari, mi te la giumandata, vai da una negra, ma giù con palazzo. E cosa le fai, dice negra? A doppio servizio. Arrivi da te, guardatela. Ciao Maria, è ben vista là. Ma ammazzi però, Ammazzi, Rusi. Non vedi che è Rusi, già si vedi già. Ma tu l'hai mascherata? Lei la maschera, quella è la maschera, La maschera del viso di chi è? Ah, una maschera, ho capito. Serve per la pelle, tirasso dalla pelle, capito? Per tutte queste cose. Dai vai. Una negra di rubare che... Aspetta un attimo. Pronto. Buffetto. Chi è? Luca Flipper. Luca Flipper. E lu. E tu non vai al circolo? Al circolo. E Luca non è andato al circolo. Beh? Non lo sai che poi va al circolo e fa il karaoke. È vero. E allora canta tu scendi dalle stelle. Vai, non canta Luca. Eia, invece Gio Maria va e canta Heidi. Bello. Bopo. Quella canzone delle montagne, Heidi. Ti sorridono i monti. Ehi, che poi c'è il formaggino mio. A me mi pare che quando mangi un gelato ti fai effetti collaterali strani. Hanno dato Marco Carta al televisore, visto là. Cagaro. Non hai visto, l'hanno arrestato perché ha rubato le magliette a Ucian di Cagliari o di Milano, Poverino, ne aveva bisogno. Ma lui era contento che l'hanno arrestato perché dentro ci sono tanti macchiuti. E allora, gli hanno detto ti spacchiamo e lui subito pronti. E allora, Guccio va via abbigliato e pure a Dorranda, te lo immaginai? Allora, così l'ha detto, se mi liberate intanto lo torno a fare. Ho la piscina, e intanto mi dovrà provare. Come ti va di a Peppi? Ce l'hai conosciuto a Peppi? Caspita, sempre lì sa per farsi fare la retroscopia, era. A chi va per la tua gusto? Una volta di finale era in paramento un reparto unirlo io, però era in un'altra camera. Tutti vinti in giro, già dice, e tutti rigurori. Però... Ma se programma tu sei ben denti. Camionista in trattoria, ne vede roba di magna. Dimmi, non ho copiato che mi stavano dicendo cosa, dimmi Luca. E ho detto, quel programma che c'è, non te lo stai guardando, camionista in trattoria? No, lo aspetta, quelli che comprano a blocco, quello che c'è all'interno dei container. Caspita, oggi chi ti è stata abbutunata, 30.000 dollari mi pare, o 300 dollari. 30.000 pure una macchina d'epoca, nuova fiammante, più un salottino e altri impreati così. Ha fatto bingo. Ma gli date un esempio di Mattesi, grazie, no, non ne gioco più a Baitenco. No, questo di oggi era disperso. Cioè, il programma è lo stesso, però gli acquisti che hanno fatto erano nuovi, le nuove puntate, capi? Che aprono container e poi offrono che offre di più, o poi dentro è la sorpresa, quello che ti trovi ti trovi. Ti fa venire un qualcosa così appena lo apro, però 30 furuccia cosa vedo, cosa lo vedo, lo sai, capi? Me partono con una quota, non lo so, mille dollari e poi al miglior offerente si rubiglia. Già lo so, le aste sono, già lo so, quelli dei container, già l'ho visto un sacco di volte. Oggi chissà che è un po' in gamba, quella con i capelli lunghi, che è bonazza, quella lì ha fatto bingo. C'era anche una bionda, molto una bella donna lo stesso, con gli occhi azzurri, nell'altro coso, nell'altro programma, sempre di asse, che era chi tu lagno e chi tu grasso grasso, chi girava nei lunghi sul furgoncino bianco, te la mente. No, la bionda c'era anche oggi in questo programma, insieme a quella con i capelli neri. Quella lì c'era anche oggi, però ha acquistato quella con i capelli neri. No, sto guardando camionista in trattoria, che mangiano i castigani, chef Rubio. Già l'ho visto anche quello, ogni tanto già me lo guardo, anche donne ci sono, pari ne uomini mari. E lui? Mi ha preso un macio, e chi c'è femmina, chi ci sono, secondo me sotto sono, fare l'attrezzatura. Vanno un gricco. E allora, sono attrezzati, sono lombi. Scelte di vita sono, grazie a... Scelte di vita, dei biasi, perché viaggiano, oggi sono qua, domani sono là, mangiano sempre fuori, in trattoria, capite? Sono sempre per dei grassotti. E io ne conosco un paio, una abita a Canica, che fa l'autista, fatelo con l'età, mi lo faccio imparare a me pure, da Nieto, alla Gondrand, da Noce, insieme a me lavorava, però lei con un altro camion. Altri che fanno, chi c'era un uomo era. Da Roni ci ha lavorato mio padre, sempre col collettame. E alla Gondrad ci ha lavorato mio padrino. Una volta hanno regato un camion di banane in campagna, o io, ma cascette in tre. E quelle le trasportavo anche io, quelle erano di Oscar, erano lo stesso piazzale, però erano i capannoni di fronte al capannone della Gondrand. E Oscar si chiamava il padrone, Romano era, Romanaccio. Laggiù ha voluto a Creballi l'Alfa 33 per pigliarsi di una della simulazione. Laggiù tutta un'inculata con un camion, via giù fatta, da quattro luoghi a due luoghi, tutta chicciata. Stavi incasciato le linee della simulazione e da me mi dà sempre banane a cassetti. Mio padrino le aveva portate una volta, a cassetti, di quelle, come si chiama, Itamaha famosa, capito? Quelle lì magari l'hai anche conosciuto. Sicuramente sì, com'è che si chiamava? Mario De Martis, mica proprio la vibe a me. Sì, già l'ho conosciuto. Tutti li conoscevo, gli altri hanno lavorato lì. E io ci ho lavorato un sacco di anni, mi hanno comprato. Però quando trovavo lavoro fisso, non ci andavo e andavo al lavoro fisso assicurato. Perché quando ero lì era conto mio, padroncino, capito? Fermavo il camion in campagna e me ne andavo a lavorare sotto a principale, assicurato. Poi quando veniva mi dettano scienze stava nuda, mi veniva in moto a dorare il camion e faceva con l'esame nel frattempo che non ne trovavo un altro, capito? Illudando. Sì, Oscar, e c'è una rimbuzzo, poveraccio, era già grande quando ci lavoravo io lì. E le banane le caricavo da Cagliari, arrivava la nave, accendeva a Cagliari, aspettava il porto. Arrivava la nave dalla Tunisia e pienava il camion, capito? Capito. Ehi, anche mio padrino si è morto 2 anni, già. Tumore. Morto e tumore? Chissà malattia se puttendo un po' di gente. Un po' di gente comunque, di quelli che lavoravano lì, alla Gondra, anche la carovana, un po' sono morti. Molti autisti che conoscevo sono morti lo stesso. Vado a fare l'insulina alla zia di Paoletta. A dopo. Ehi, ciao, grazie. A dopo.